America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I believe the Fed is very political. It's become very political. Beyond anything I would have ever thought possible. Donald Trump, lo avete sentito, pimpante, aggressivo. Beh, devo dire aggressivo fino a un certo punto, perché ieri ha parlato al New York Economic Club, che è uno dei club economici più prestigiosi in America. E Trump, come sempre, cerca così di sensazionalizzare un pochino. E dunque, cosa ha detto in questa dichiarazione che vi ho fatto sentire? Dice, ma cioè, credo che la Fed, come molte altre agenzie federali in questa nazione, sia diventata decisamente politica, molto più di quanto avessi mai potuto credere possibile. E io devo pensare, dice Trump, che se dovesse scegliere fra la scelta giusta e quella politicamente conveniente, sceglierà ogni volta la seconda. Ecco, adesso lo sappiamo dunque con certezza. Donald Trump non sopporta la Federal Reserve, troppo politica, poco economia, prende ordine alla Casa Bianca, ha detto ieri, e dunque è preoccupato. Ma il candidato per la Casa Bianca 2016 spinge anche più in là e dice la Fed non aumenterà i tassi di interesse fino a gennaio. Beh, beato lui, perché qui non lo sa nessuno, dunque ci ha dato una notizia. E perché aspetterà fino a gennaio? Beh, dice Trump, così scherzando gigionamente col pubblico, cioè deve consentire a Barack Obama di poter andare a giocare a golf tranquillo dopo le elezioni. E questo, dice, cosa farà? Beh, consentirà alla borsa di restare sopravvalutata. Insomma, ci ha dato due notizie Donald Trump. Ci ha detto che i tassi di interesse non aumenteranno fino a gennaio e che la borsa è in bolla. Se le facesse da presidente, queste dichiarazioni avrebbero ripercussioni non da poco sui mercati. Dobbiamo immaginare che in questo momento, in campagna elettorale, forse può permettersi di dirlo. Ecco, in sala ci sono finanzieri, ci sono banchieri, però devo dire anche il comitato d'onore è la metà di quello che è normalmente un comitato d'onore in un evento di questo genere. Perché? Ma perché alla fine nella sua città resta un personaggio controverso. È andato anche in parecchi dettagli, è stato un intervento interessante il suo. Sentiamolo. That's why I believe it's time to establish a national goal of reaching 4% economic growth. Ecco, Trump che dice torneremo a crescere, se sarò la presidenza cresceremo davvero, torneremo ai tassi di crescita del 4% contro i tassi di crescita deboli che hanno caratterizzato questi 8 anni. È chiaro che a tutti fa piacere ascoltare una promessa di questo genere, soprattutto in un contesto in cui molti economisti dicono che tornare a tassi di quei livelli in questa fase congiunturale mondiale è piuttosto difficile, per esempio perché l'Europa non tira, per esempio perché la Cina ha rallentato e così via, così via. E poi continua con grande convinzione, ci riporteremo l'occupazione al nostro paese, ci sarà un aumento del reddito reale, ci occuperemo della classe media, degli americani che giorno dopo giorno tengono in piedi il nostro paese. Trump, devo dire, è stato efficace, ha dato più dettagli ieri rispetto al passato, ha esordito tra l'altro ricordando che gli ultimi sondaggi lo danno in vantaggio in alcuni degli stati chiave ed ha attaccato Hillary Clinton per aver criticato i suoi sostenitori. E poi ha chiuso questa parte politica con una certezza. Non c'è dubbio, ha detto, vinceremo. Everything that is broken today can be fixed and every failure can be turned into a truly great success. Trump sostanzialmente ieri in modo ordinato, ha letto poi tra l'altro un testo scritto, ha messo a fuoco 4 grandi comparti economici dove interverrà, ha detto fin dal primo giorno, in modo da avere una crescita media del 3,5%. Poi dice possiamo anche fare molto meglio, possiamo anche fare il 4%, ma i miei economisti mi tirerebbero le orecchie, non vogliono che ve lo dica, comunque sia. Ora siamo all'1,1% e il 3,5% di crescita non si vede dal 2004. Cominciamo dal piano fiscale. Beh, ha proposto una riduzione da 7 a 3 delle aliquote, quindi una semplificazione con una riduzione trasversale, la minima al 12%, quella media al 25%, quella più elevata al 33%. Altro elemento molto importante, la questione del rimpatrio dei capitali. Se ne è parlato quando si è data la multa alla app, si diceva che le grandi multinazionali americane tengono i quattrini fuori perché se li devono rimpatriare devono pagare un'aliquota altissima. Ebbene, lui ha detto io la ridurrò questa aliquota dal 35 al 10% e migliaia di miliardi di dollari rientreranno a casa. Ha proposto anche una riduzione dell'aliquota generale sulle aziende dal 35 al 15%. Ecco, come fa, ci si può chiedere, a tenere poi in ordine i conti? Beh, la sua promessa, e qui arriviamo al terzo punto, è quella di ridurre le spese across the board, come ha detto ieri, mantenendo soltanto i fondi necessari per il Pentagono, che vuole rafforzare, e per le spese sociali e di assistenza. Questa è una novità per un candidato repubblicano. Ecco, oltre al commercio che vi ho accennato prima, Trump ha detto che vuole riaprire tutti i tavoli negoziali per gli accordi di libero scambio a partire dal NAFTA, e ha ripetuto che il Messico dovrà costruire il muro e lo dovrà pagare, ha ripetuto tre volte, lo pagheranno loro. Il punto finale riguarda le regole, la regolamentazione. Sentiamo. Regulations have grown into a massive job-killing industry. Is one business I will absolutely put to an end day one. Metterò la parola fine alla burocrazia a partire dal primo giorno alla Casa Bianca, ha detto Trump. L'estrema regolamentazione ci costa 2.000 miliardi di dollari all'anno, e proporrò anche una moratoria per eliminare tutte le regole che distruggono il lavoro. Ecco, in sostanza vuole eliminare migliaia di regole, e ha fatto un esempio. Dice: lo sapete cosa mi rispondono i capi azienda quando gli chiedo se, dovendo scegliere, preferiscono riduzioni fiscali o l'eliminazione delle regole? Beh, dice, tutti vogliono l'eliminazione delle regole inutili. Pensate cosa direbbero in Italia, perché già in America sappiamo che di regole ce ne sono molte meno di quelle che abbiamo noi. Regole, dice Trump, imposte da burocrati che non sanno nulla del mondo reale, delle regole che arricchiscono soltanto gli avvocati. Ecco, si congeda Trump, il pubblico applaude. E chissà che Wall Street a questo punto non gli dia più finanziamenti. Finora la sua città era stata anche la più parca. Registro che David Koch, super finanziatore del partito, non c'era, ma non c'è bisogno di lui per andare avanti in questa corsa elettorale, sicuramente non per Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ecco, la dedichiamo a Trump, che si era definito il re del debito. Ecco, sul debito, tra l'altro, ieri ha detto che il debito americano è sacro, ripagherà fino all'ultimo dollaro, anche se poi ha aggiunto, forse potremo in qualche caso rinegoziare qualcosa. Comunque sia, si sente anche il re in questo momento della corsa elettorale, soprattutto la persona in grado di risolvere tutti i problemi economici. E dunque a Trump dedichiamo dei Six Deft, I am the king. Io sono il re. I'm the king around here, but don't call me no dirt. I'm the king around here. I'm the king down here, so don't call me no dirt. I'm the king down here. I felt good as I looked at her. Yes, I did not. You know I did not. I said, baby, I felt brutal desire. No, I did not. No, I did not. Baby, I felt brutal desire. No, I did not. No, I did not. Yes, I did not. You know I did not. I felt brutal desire looking at her. No, I did not. You know I did. I said, baby, I felt brutal desire. No, I did not. No, I did not. New Network è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.